Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. L'abbraccio di un paese che vi è molto grato, è molto debitore. Noi abbiamo tanta storia di Made in Italy nel mondo, ma c'è una specificità del nostro Made in Italy che ricordiamo un po' troppo poco, e che è la straordinaria professionalità e abnegazione dei nostri militari all'estero, che hanno un Made in Italy particolare anche nel modo di fare peacekeeping. In Italia di cose belle, notoli, pizza, bandoline, tarantella. Viva l'Italia, viva la stabilità, viva la capacità di stare dentro le Nazioni Unite a viso aperto, a testa alta e con l'orgoglio di rappresentare il tricolore. Forza, forza italiani, anche oggi dovete svegliarvi, dovete produrre, dovete andare in giro per l'Italia. Come Renzi in giro per il mondo. Ieri era in Libano a salutare così i militari italiani. Oh, noi ci siamo, come vedete. Sono le 6:30 minuti e 12 secondi, 13 secondi, 14 secondi, 15 secondi. E voi, e voi, e voi non sarete mica già in ferie. Oh, tra l'altro, a proposito di ferie, la Camera fa 20 giorni di ferie e vi lamentate per i miei miseri 14 giorni di ferie? Miserrimi. Ma io veramente non c'è più persona. Personaggetti siete, cialtroneria pura, personaggetti. Ve la dedico da De Luca. Tutti coloro che si lamentano per le mie ferie, proprio dedicata a tutti quanti voi. Personaggetti, gentucola, cialtroneria pura. Domani siamo qui però, sono qui 24 dicembre a festeggiare la vigilia di Natale con voi. E poi basta, poi ci risentiamo per quel che mi riguarda il 7 gennaio. Milan, brutto del bosciato! Allora, sono le 6:31 minuti, voi ci siete? Ditecelo al 349-238-6666, ci iniziano ad arrivare subito i primi beh, parlamentari debosciati. Non male. Ci saluta da, non si capisce che vuol dire, buongiorno Redenzio Orgiano Vicenza. Ma ci sono almeno due di queste tre parole che capisco poco. Allora, eccoci qui. Ti è anche attivo WhatsApp, ma non è, crede. Ebbene sì, ci abbiamo WhatsApp. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia. Devo subito salutare il nostro direttorissimo, il direttorissimo. Pensa che, eccolo qua. Pensa che stamattina mi sono svegliato, la prima canzone su RDS era questa. E ho detto, oggi c'è Luca Dini subito. E quelli di tutti pazzi per RDS mi accolgono così. Bene sì, non si può dire che se vado in macchina metto RDS. Non si può dire. Non si poteva. Ma vengo licenziato per questo, Luca, secondo te? È motivo... No, una sanzione magari. Una trattenuta, dai. Come sei generoso, Natale. Una trattenuta sullo stipendio, va bene, sì. Va bene, ma tipo del 10%, quanto potrebbe? Non so, la tredicesima. Ah, ecco. E se è già arrivata, che fanno? Ti tolgono l'altra parte. Me la stornano, me la stornano. Va bene. Ci racconta un ascoltatore. Dimmi, dimmi. Il mese te lo devo ancora dare, no? Ah, ecco. Ma te fornisce sempre delle idee simpatiche, tu. No. Non so, sei la quinta colonna del personale qui al Sole 24 Ore. No. Vabbè, ci saluta da Francoforte un ascoltatore dopo 7 ore di volo allucinante da Boston. Ora, abolite i figli, dice, abolite i marmocchi. Vabbè, ma dai, adesso che devo fare, caro ascoltatore? Comunque ci ascolta da Francoforte dopo 7 ore di volo da Boston ed è lì fedelissimo ad ascoltarci da Francoforte. Vabbè, ma questa è veramente amore puro. Oggi intanto voglio salutare un signore presidente del Codacons, che è il nostro avvocato Carlo Rienzi. Carletto. Buongiorno. Buongiorno. Sentite, buongiorno. Sentite già il piglio di uno che un paio di cause le ha già firmate gli esposti stanotte. Sì. Anche per chi avevo detto questa settimana, avevano detto che non c'è la nostra Saluzzina, non c'è la nostra Paoletta, non c'è di qui, ma invece caramba. Che sorpresa! Che sorpresa! Non potevo. Oggi ci stringiamo un po', ma per qualche minuto. Per qualche minuto io volevo solo buongiorno, avvocato, buongiorno direttore, buongiorno Alino. Cioè, come ma buongiorno, ma cosa ti tolgono la tredicesima? Ma che idea? Ma non lo so, è un'idea di Lucadini, peraltro. Volevo dire buon Natale. Mi perdo questa occasione di poter dire buon Natale. Ma infatti è bellissima questa cosa. Tutto l'anno con noi potevamo andare in vacanza senza il saluto di Paoletta Saluzzina. No. Eccomi oggi qua. Però mi faccio piccolina, come dice Lello Arena. No. Io mi comincio da tre, mi faccio piccola e via. No, intanto io vorrei sapere da tutti, so già che la risposta è sì, tutti pagate il canone della RAI, questo è certo, lo sappiamo, Paola Saluzzi, Lucadini, Carlo Rienzi, figurarsi, Rienzi farà le cause a chi non paga il canone della RAI, perché c'è questa novità, è stata approvata la legge di stabilità, finalmente si raccoglieranno 420 milioni in più, questo da stime. Io dico solo questo dato, in Gran Bretagna l'evasione è al 5%, in Germania 1%, i tedeschi sono sempre. Noi siamo attorno al 27%. Però non ho capito se questa cosa del canone in bolletta piace. Rienzi, va bene così? No, non piace, perché bisogna essere capaci di far pagare il canone a chi lo deve pagare. Per esempio, qui in Italia non hanno mai pagato i ristoranti, i bar, i partiti politici, i circoli culturali. Ma se è pieno di esercizi commerciali che ci scrivono dicendo, ci chiedono il super canone da 500 esatto, euro. È un super canone che è giusto, perché loro sfruttano economicamente la televisione, cioè fanno vedere la partita, si fanno pagare la bevanda, eccetera, eccetera. Ma non lo paga nessuno quello, perché sarebbe stato facilissimo fare i controlli. Noi abbiamo fatto una battaglia anni fa contro questa evasione e niente, l'Agenzia delle Entrate che doveva fare le cose non le faceva, le procure non facevano niente, cioè c'era un andazzo, allora hanno trovato questa soluzione, ma questa soluzione non va bene, perché poi se io veramente non uso la televisione, non ce l'ho, non ne ho due residenze. Ma non ho due televisioni, devo fare un sacco di adempimenti, adesso si vedrà come sarà, devo scrivere che non devo pagare, tutto quello che però è il risultato dell'evasione. Questa cosa degli esercizi commerciali, ci sono anche aziende che dicono: io c'ho abbiamo un televisorino che ne so che teniamo lì nella direzione, anche nelle aziende metalmeccaniche ci arrivano 500 euro da pagare perché basta avere un televisorino. E questa cosa è un po' controversa, non è? Forse gli esercizi commerciali barsi sfruttano un po', però la questione è questa. Luca e Paola, Luca, è giusto così, cioè bisogna metterlo in bolletta. Io non lo so che casino verrà, cioè poi che faccio se io non pago la bolletta, mi staccano la luce se non pago il canone della RAI in bolletta? Siamo sicuri? È tutto da vedere. Certo che si può discutere anche del canone, nel senso che uno può dire non è giusto, però se c'è bisogna pagarlo, se questo è un modo di farlo pagare, diciamo che chi lo pagava e chi era a posto non dovrebbe avere nessun problema, no? Io sì, credo che l'evasione fosse molto alta anche tra chi non è solo il supercano, c'è tanta gente che non pagava, cittadini normali. Sì, pensate che allora, se non ci piace parliamo del canone. Sì, ho capito, però il problema del canone è che io pago se tu mi dai un servizio pubblico, perché... E beh, questa è la contestazione, questa è la contestazione. Vedere pubblicità quanto Mediaset, se non di più, siamo a livelli veramente parossistici, tutte le reti Rai fanno pubblicità in continuazione. Sì. Allora, se mi fai vedere la pubblicità e incassi... pure, non va bene pure che poi paga pure il canone. Ma guardate tutti Sky, ma guardate tutti Sky, ti piace Paola questa pubblicità, ma guardate tutti Sky, è risolto, no? Lì pagate l'abbonamento, sì, però pagate l'abbonamento. Però questa è una cosa molto dibattuta, cara Paola. Qua, pensa che a Milano si arriva al 42% di evasione del canone della Rai, 42%. Perché a Milano? Ma che ne so, ho letto oggi sul giornale, c'è una punta di evasione a Milano, il 42%. Oh, che ti devo dire? Te la giro così. Come? Nella brillante Milano, ma insomma. Perché sì. Sarà, ma io ho ancora il ricordo tenero dell'arrivo del bollettino a casa quando ero piccolina, e quindi, come dire, è un servizio, no? È un servizio. Insomma, va pagato, punto. Sì. Sì. Però io vorrò vedere che succederà. Detto che costerà meno, tra l'altro, da 113 euro a 100 euro. Questa è almeno una buona notizia, indiscutibile, insomma, per tutti gli italiani. Per chi lo può. Capirai. Capirai, 13 euro di risparmio. Rienzi, ma capirai. Te fai mezza pizza. Che c'è, Luca? Le tasse sono alte perché c'è chi non le paga. Se tutti pagassero le tasse sarebbero più basse. Quindi. Io personalmente plaudo a qualsiasi cosa contro l'evasione. Qualsiasi cosa. Chi è onesto e paga. Ci guadagna. Allora, intanto devo fare un saluto. Guardate che cosa straordinaria. Vi ascolto da Gerusalemme sulla strada per l'aeroporto, perché quest'anno non mi perdo il Natale in Italia. Questa ascoltatrice, beh, ma fantastica. Che bello. Fantastica. Ci fa gli auguri, ovviamente, auguri ricambiati. Arrivino anche a Gerusalemme, Terra Santa. E allora, vabbè, questa storia del canone della Rai è così. È una cosa che ci dobbiamo. Oggi, invece, sui giornali è tutto pieno ancora di banca. Anche, mamma mia, però so che Rienzi, cosa starete facendo? Cosa state architettando? Beh, stiamo facendo un sacco di cose, perché stiamo cercando di far dare i soldi a questi che sono stati truffati tutti, cioè non è che tutti, c'è... Tutti truffati, ma siamo sicuri? E meno truffati. Siamo sicuri che sono stati tutti truffati? Sicurissimo, perché non potevano le banche dire... Comprate titoli nel momento in cui erano in crack, cioè, questo è il punto. Lascia stare se poi questi erano esperti o non erano esperti o altro. Ma come? Ma le condizioni di dissesto non le conoscevano, quindi chi vendeva le conosceva, e questa è giurisprudenza costante, non si può fare. Tu non puoi vendere titoli se sai che sei in una situazione di dissesto. E questo è il punto. Però rimane da dire, ma veramente la questione sull'educazione finanziaria, che secondo me è un punto fondamentale, ma davvero non c'entra nulla. Non so, chiedo Luca Dini, no. Non c'entra nulla, no, non, per Renzi non c'entra nulla, cioè l'idea di aver firmato delle cose che magari uno poteva anche non firmare, insomma, certo, non penso ai vecchiettini poverini truffati, penso magari a chi sognava 6-7%, 5% degli interessi buoni. So, Luca, un pochino c'entra, ma a me colpisce una cosa, che tra i truffati ci siano anche alcuni, diciamo, presunti truffatori, nel senso che ci sono tanti bancari che hanno comprato questi prodotti e che hanno perso i loro risparmi, quindi è tutto molto, cioè, mi colpisce questa cosa, evidentemente la consapevolezza da parte di chi vendeva non era così. Ma non sono i bancari che vendevano quelli, quelli sono bancari qualsiasi. Ma no, ma guardate che tra l'altro oggi sui giornali oggi si racconta delle buone uscite milionarie di tutti i dirigenti, gente che si è data, sì. No, soprattutto a Banca Etruria. Oggi Libero tra l'altro apre un altro fronte, dice che c'è Franceschini che è invece azionista di Cari Ferrara, un'altra delle banche salvate, e nel CDA sedeva prima il suo nonno e poi suo padre, sono entrambi scomparsi, ma insomma, e quindi Libero dice, insomma, è una vicenda abbastanza simile anche per unioni familiari con quella del ministro Boschi. Comunque, chissà che succederà. Però posso dire, chi conosce la realtà locale di questi posti, molto ridimensionare questa cosa qua, perché dove le banche sono localmente radicate, essere azionisti magari per 200 euro, 300 o 1000 euro, sì, è una cosa molto comune. Sì. Allora, i principali responsabili sono Banca d'Italia e Consob, parliamoci chiaro. No, ma questo sì, è da giorni dovevano che fare in modo di bloccare la vendita delle obbligazioni quando sapevano benissimo che le banche erano in crisi. Però aspettate un attimo, perché qua dobbiamo salutare tra due minuti poi la Saluzzi, che sento già sferragliare e già assolutamente già sta preparando la colazione. No, questo è il momento in cui... che colazione, io sto andando a... Allora, devo trasferirmi, sì, con il mio gatto da una mia amica. Ah. Perché così riesco a partire per due giorni per Natale lasciandolo in gatto. Quindi tu oggi non lo sei, so, in onda. Assolutamente sono in onda. Ah, sei? Assolutamente. Sei in onda? Rigorosamente. E domani? Sono in onda anche il 25. No. No, come il 25? No. 25 sì. Ma è tutto un giro, poi te lo spiegherò. Ma come il 25? Facciamo una petizione. Luca Dini, tu che hai potere per togliermi la tredicesima, hai potere anche per intervenire su Sky? Dobbiamo, è una puntata speciale. Ho capito, sarà speciale, ma Luca, fai qualcosa. Buon Natale, ragazzi, buon Natale. Ma poi il danno del gatto che cambia casa, ma non vi rendete conto? Ma quale danno? Io faccio un esposto alla protezione animale. No, io ieri l'ho portato da mia mamma, anch'io l'ho portato da mia mamma, perché non si... I gatti non si devono spostare di casa. Ho capito, ma non potevo spostarla a casa da mia mamma. Facciamo una... Le faccio l'esposto, niente, per quello che lei ha detto. No, dai, non finiamo. Si soffrono fuori di casa. Ma no, ma stai in casa, stia tranquillo. Fuori dalla loro casa. No, ho capito, ma sta... Facciamo una cat action. Avevo il gatto, pagavo una persona che veniva la mattina, la lasciava stare a casa sua. Ecco, eccola qua. Attenzione. No, qua l'hai toccata sui gatti, Rienzi. Guarda che diventa una furia, la rossa. Dici, Paolo. Appunto, bravo Lino. Io ieri ho avuto ospite Mauro Meazza. Ah già, è vero. E gli ho detto come prima cosa, fatemela dire, sì, perché è una citazione, sì, familiare ormai. Traffico, ho detto l'uomo che con Alessandro Milan ogni mattina grida traffico. E lui mi ha guardato con un'aria un po' perplessa, come dire, ma faccio anche altre cose. Un uomo ormai rovinato, perché questo è il nostro obiettivo: rovinare una carriera integerrima, quella di Mauro Meazza, dopo 25-30 anni di carriera a parlare di norme, tributi, eccetera. Noi stiamo cercando di distruggerla in maniera... Perfetto, facciamo anche la Meazza Action. E non mi è piaciuta questa del gatto, eh? No, lasciamoci bene, vi rivedrete in tribunale. Intanto, Paola, ti mandiamo un grosso abbraccio, buon Natale, andiamo al traffico e poi detto alla Meazza, traffico! Manda traffico. Sì, Milan, volevo commentare il fatto dell'Unità su quello che ha scritto su Casaleggio. All'Unità, secondo me, se volesse fare un pochino di informazione, dovrebbe raccontare il suo caro amico Renzi questa dura lotta all'evasione con l'aumento del contante a 3.000 euro e la tassa che ha tolto sugli yacht. Ma perché non si guardano in faccia e si sputano, guarda, fanno più bella figura. Perché stiamo sempre a parlare di meridione, aiuti di Stato, meridione, quando il 17% dei fondi europei viene solo speso nelle regioni del meridione? I soldi li hanno, imparino a spenderli. Milan, dai, fa giornalista serio, promettimi che stamattina smentisci la puttanata di Renzi sull'assenza dei 5 Stelle mentre si votava la legge di stabilità. E ogni mattina, wow, wow, c'è Alessandro Milan, wow, wow. Vabbè, insomma, questi sono i nostri ascoltatori, Luca, imparato a conoscerli ormai, sono così, insomma, cancelli aperti e poi dopo... poi dopo li andiamo a riprendere, ovviamente. Scherzo, scherzo, ovviamente un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Ci salutano anche dal Libano, Massimo ci segue sempre dal Libano. Io saluto quelli che ci seguono dall'estero, Massimo dal Libano, chissà che sei ieri andato a vedere Renzi. Siamo comunque con il quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e il nostro direttore di Ventifer, Luca Dini. Allora, del caro abbiamo parlato, delle banche abbiamo parlato, della politica non lo so, abbiamo parlato di Forza Italia. Ah, sapete la novità, Luca, c'è un tuo collaboratore, ex collaboratore, Sandro Bondi, che scriveva, quello che scriveva le poesie, ma che fine ha fatto? Lo senti più? No. No, ultimamente no. Ultimamente no, ha lasciato Forza Italia. Lo so. Con la fidanzata, con la compagna, la Repetti, e va da Verdini. Ah, e poi di là dove va? No, non lo so, ma poi rimane lì. Rimane lì, non lo so. Lo porta il gatto oppure lo lascia. Mamma mia, sta cosa del gatto. Rienzi è rimasto scioccato dal fatto che la gente sposti. Noi abbiamo aperto lo sportello del Pellegrino, adesso apriamo lo sportello del gatto Pellegrino, così non se ne parla più. A difesa dei gatti Pellegrini. Vabbè, ma no, la domanda di politica, secondo voi chi è messo peggio? Ecco, facciamola così. Chi è messo peggio in questo momento? Partito Democratico, Forza Italia o Movimento 5 Stelle? Dai, prendiamo le tre forze. Forza Italia, dice Rienzi. Anche tu, è direttore. Troppo facile. È troppo facile. Troppo facile una domanda. Bisogna dire chi è messo meglio. È lì, chissà. No, perché oggi Berlusconi parla al giorno, fa un'intervista al giorno e dice, a proposito, quando il gatto è via, i topi ballano. Vedi che corsi e ricorsi storici, il gatto è via. Ma che sta succedendo secondo te nel centrodestra, Luca Dini? Dai, facci questa analisi politica, cosa sta succedendo? Che quando la zattera affonda tutti scappano. Erano tutti molto bravi a starci sopra quando le cose andavano bene. Cioè, proprio a me personalmente il problema, cioè, riconoscenza massima, dici? Riconoscenza massima, ce n'è stata tanta fino a un certo punto, poi forse il nocchiere della zattera ha sbagliato tutto sicuramente, però insomma è comunque una cosa triste, a me non piace, devo dire. Non ti piace? No. Che dice, avvocato? No, dicevo che tutti i partiti unipersonali come Forza Italia, come era Berlusconi, no? Fanno questa fine quando il leader poi crolla in qualche modo, o perché è messo sotto dalla magistratura, o per una certa età, anzianità. Renzi sarà lo stesso, se adesso c'è una, che esiste più un partito comunista, tra virgolette, come una volta, dove c'era un ideale comune che univa tutti quanti. Lui è il successore più bravo di Berlusconi, si definisce di sinistra, va bene, però è sempre adesso quando lui ci avrà qualche, se ne andrà per qualche motivo, crollerà questo partito che non è più un partito comunista, lui, un partito democratico. Cioè, al giorno dice torno. Comunque sentite come la vede Salvini, per Salvini addirittura altro che andarsene da Verdini, alcuni Forza Italia dovrebbero andarsene nel PD direttamente. Spero che terminino le fibrillazioni in Forza Italia, spero che qualche attuale rappresentante di Forza Italia prenda la tessera del PD, cosa che gli dovrebbe essere più naturale visto il suo agire politico. Capito Luca. Matteo Salvini, che a te non piace, lo sappiamo, non piace, però è quello che almeno appare come dall'altra parte fosse il più solido, no, in questo momento, come alternativa a Renzi, o no? Però non è un'alternativa. Non è un'alternativa, dice. Da solo no. Lui ha bisogno di quello che. Ma non è un'alternativa per la Lega nel suo complesso. Ma ti pare che possiamo essere governati? Senti qua il romano napoletano Rienzi. No, un partito che praticamente vuole mettere al muro un altro po' gli extracomunitari. Vuole chiudere le frontiere. Qua cioè, bisogna adeguarsi alla realtà. Bisogna conservare un'ideologia e fare un partito che raccolga tanti desideri, tante cose dei cittadini normali, cosa che adesso pure questi sindaci che si stanno candidando, che qua, che là, sono veramente figure, vabbè. Non definiamo. Anche se no. Il momento dell'anno, uno dei migliori, visto che il momento dei consuntivi, rimarrà secondo me la disfida tra il leghista Simonetti e il presidente, la presidente della Camera Boldrini. Luca, te la sei persa quella tra Simonetti e Boldrini due giorni fa? Sentila qua. Adesso chiede di intervenire il deputato Simonetti, prego. Grazie, signor Presidente. Ma signora. Signor Presidente, grazie. No, signora, perché io non sono un uomo. E fa lo stesso. No, non fa lo stesso, perché allora lei è deputata. Sì, guardi, non stiamo qui a discutere di queste cose. Guardi, allora, io parlare. Sono, allora, signor Presidente, lei, se lei è deputata. Io, per favore, dico quello che voglio. E alla fine Simonetti si incazzò. Io mi rivolgo alla presidenza come voglio. Capito, Luca? Capito. Vabbè. Succede anche che il problema in Italia sia, pare che l'unico problema italiano sia la Boldrini. Sì, esatto. Servono, mi sa, 20 giorni di ferie alla Camera. E infatti le fanno. Mi sa che serve un bel riposo. Ma visto che siamo quasi in chiusura, allora io voglio ricordare Vanity Fair è in edicola. Regolarmente c'è Adele. Ma tu come la chiami? Adele. E tante storie, ovviamente, storie di Natale, dai, diciamolo così. Qual è la storia? Quello che ha salvato a Vermicina il bambino, ho visto adesso qua, che mi sono ricordato. C'è su Vanity? Su sto numero? Sì, l'Icheri, quello che si mise. Ma c'è su Vanity Fair, me lo son perso. Luca, smentisci, è vero o no? No. Non l'hai visto, ma dove? Su non internet. Ma che su internet? Ma sì, l'ho visto, ma l'ho aperto. Ah, su internet, però non c'è nel numero cartaceo. No. Vabbè, ci sono tante altre belle storie. Comunque il numero è in edicola. Io che vi devo dire? Vi devo augurare. Anche il sito del Coracon è in edicola. Anche il sito del Codacons è online, codacons.it, giusto? .it e Codacons TV. La TV del Codacons. Con l'aggressione subita dai Codacons ieri, le bandiere sono state strappate da un'altra associazione. Ma è una vergogna. Ma che vergogna. Sono specialmente invidiosi, che poi c'è un girone dell'inferno dantesco per gli invidiosi. Che vergogna. Tutti gli sviluppi su Codacons TV, mentre trovate Adele in copertina di Vanity Fair in edicola. Luca, buon Natale ovviamente, buon anno. Ci ritroviamo l'anno prossimo, così come Carlo Rienzi, anche se noi domani siamo qui in onda, però voi buon Natale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E sì, perché siamo qui alle 7:18 in diretta, saremo in diretta anche domani 24 di dicembre, cari ascoltatori. Allora, siamo pronti a leggere i giornali? Sì, come no. Poi parleremo con Oscar Giannino ancora di questo tema che mi ha appassionato molto, cioè l'idea che lo Stato possa pagare le spese dell'ex coniuge moroso nel caso di separazione, anticipandole coi soldi dello Stato. C'è chi è a favore, c'è chi è contro, è passato in legge di stabilità e dunque è un emendamento approvato e ne discuteremo con chi l'ha proposto, ne discuteremo con chi è contrario e con le vostre telefonate, come sempre. Intanto andiamo a leggere i giornali. Allora, quasi ci siamo con il Natale, mercoledì 23 dicembre, il Sole 24 Ore apre sulla legge di stabilità, la manovra è legge, meno tasse, più deficit, questo è il titolo principale del quotidiano, mentre per il Corriere della Sera la lettera europea sulle banche, il no di Bruxelles alla linea morbida. e Roma vuole svelare il carteggio. Repubblica, banche, mossa PD, serve l'inchiesta del Parlamento. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre anche per il Messaggero, banche, lettera Unione Europea all'Italia. A proposito di banche, Libero titola così: un altro ministro nello scandalo banche, il conflitto di interessi di Franceschini, titolare dei beni culturali, azionista di Cari Ferrara, che aveva visto tra i suoi amministratori il papà e il nonno. Poi il Fatto Quotidiano è l'apertura da cui partiremo anche come notizia. Renzi si è preso anche la RAI e lo definisce così il Fatto Quotidiano, il caimanino, il caimano per loro è Berlusconi. Mentre Berlusconi parla proprio al giorno, sono in campo, è un'intervista al leader di Forza Italia. La Stampa apre su Torino, dopo 32 anni una trappola incastra il killer di Bruno Caccia, procuratore capo ucciso appunto nel 1983. Altri titoli, e le tasse vanno giù, questo è il titolo di apertura dell'Unità. Ma partiamo proprio dalla RAI, la riforma della RAI c'è. C'è una questione di politica, di governance della RAI, perché il direttore generale, da direttore generale diventa amministratore delegato, cioè Antonio Campo Dall'Orta, avrà un po' tutti i poteri. Lui dice: non sono un despota. C'è anche un riflesso, se volete, più interessante, perché riguarda davvero tutti, sul canone della RAI. Allora, tra le varie novità approvate in legge di stabilità c'è quella del nuovo canone della RAI, quindi due notizie ci sono, sia la riforma RAI della governance, sia la riforma con il canone della RAI. Il canone della RAI dovrebbe dare 420 milioni di euro in più di gettito, col fatto di metterlo in bolletta e farlo pagare da 113 a 100 euro a partire dall'anno prossimo. Tra l'altro, come racconta Sergio Bocconi sul Corriere della Sera, pagina 9, ci sono le stime di Mediobanca, dell'area studi di Mediobanca, sull'evasione del canone della RAI. Beh, sentite qui, in Italia un cittadino su tre praticamente non lo paga, siamo intorno al 27%. Con punte, non so, al nord siamo al 26%, una punta a Milano. Pensate, a Milano c'è un tasso di evasione del canone della RAI del 42%, questo dice Mediobanca. Sapete quanto è l'evasione del canone della pubblica TV in Francia? In Francia e in Germania è l'1%, in Gran Bretagna il 5%, noi siamo attorno al 30%. La provincia italiana più virtuosa è Ferrara, dove il 17% di evasione del canone della RAI si registra, mentre le zone più indisponibili a pagare il canone, come Crotone o Napoli, sono al 55%. Questo per quel che riguarda il canone della RAI, ma poi c'è appunto la nuova governance. Il Fatto Quotidiano attacca: tutto in mano a Leopoldino. Il Leopoldino è Antonio Campo Dall'Orto, cioè il nuovo amministratore delegato della RAI. Cosa cambia? Cambia che appunto nominerà lui i direttori generali, potrà firmare contratti fino a 10 milioni di euro, nominerà i direttori, sposterà anche di competenza i giornalisti. L'accusa è appunto decidere un po' tutto, ma qui le posizioni sono diverse. Il sottosegretario Vice Ministro per la Verità e le Comunicazioni Antonello Giacomelli, intervistato da Marco Mele sul Sole 24 Ore a pagina 10, dice: la RAI da oggi così diventa più azienda. Il senso del provvedimento è questo: la RAI da oggi è più azienda, si avvicina al modello delle normali imprese, il CDA fissa le strategie oltre a firmare gli atti fondamentali. Vogliamo sintonizzare la RAI verso le istituzioni e non verso i partiti. La missione deve essere quella di interpretare il paese, non di essere la sommatoria di visioni particolari. Il ruolo del CDA è ridimensionato? Chiede il Sole a Giacomelli. Al contrario, risponde il Vice Ministro, detta la strategia, fissa le risorse per attuarla, è il potere di ogni consiglio di amministrazione. Abbiamo introdotto in più la possibilità per il CDA di revocare il mandato all'amministratore delegato. Dalle prime mosse del vertice mi sembra si stia compattando sulla direzione da prendere. Però le critiche invece, se uno legge il Fatto Quotidiano, sono impietose. C'è anche un'intervista a Enrico Mentana, direttore del TG della 7, che dice: così la TV di Stato ritorna al 1975. Intervistato da Luca De Carolis, dice Mentana: non si può dire fuori i partiti dalla RAI e poi approvare una legge del genere. Se l'avesse fatta Berlusconi sarebbe pure peggio, perché Berlusconi possiede già 3 reti televisive. Ma guardi, qui il problema è di sistema. Il nodo non è tanto Matteo Renzi, premier pro tempore. Il tema vero è che questa riforma schiaccia ancora di più l'emittente pubblica sotto il peso del potere politico, legandola al governo. E la dipendenza è rafforzata anche dal canone, che verrà rastrellato inserendolo in bolletta, una misura che crea una chiara distorsione nel mercato. Certo, ma è una norma antievasione, chiede il Fatto. Questo è assolutamente positivo, risponde Mentana, ma se è vero che il canone in bolletta frutterà 420 milioni in più, che effetti ci saranno sulla concorrenza con le aziende private? Per di più in una fase in cui c'è un incredibile calo degli introiti pubblicitari per tutti. Insomma, lei dice la RAI diventerà invincibile? Di certo avrà una forza enorme. Si poteva rimediare fissando un tetto per la RAI, perché così com'è questa misura è lesiva della concorrenza. Così Mentana. Come vedete, la stessa notizia, la riforma della RAI, viene dipinta dal vice ministro Giacomelli e dal Fatto Quotidiano in maniera ben diversa, soprattutto dell'influenza della politica sulla RAI stessa. Oh, sono state approvate anche delle novità importanti in materia di ambiente. Quella che mi ha incuriosito, mi ha interessato di più, riguarda secondo me milioni di italiani, milioni di nostri ascoltatori, è questa: attenzione, arrivano le multe salate per chi butta il mozzicone per terra, per chi butta lo scontrino del bar magari appena uscito per terra, tracla, pallottola e via. Multe fino a 150 euro per chi butta lo scontrino, multe fino a 300 euro per chi butta il mozzicone di sigaretta per terra. Sigarette, gomme, scontrini, multe fino a 300 euro per chi sporca. Lo trovate a pagina 11 del Messaggero, c'è un articolo mezza pagina, ma insomma la notizia è su tutti i giornali. C'è da dire che l'Italia è il paese dove ci sono tutte le multe sulla carta, e poi, ma voi avete visto mai una multa perché uno butta uno scontrino per terra? Avete visto mai una multa davvero applicata? No, ditemelo, ci saranno sicuramente una multa applicata perché uno butta un mozzicone di sigarette per terra. Ma per favore, ma per carità, queste cose non succedono. Vabbè, è Natale e quindi prolificano le notizie di Natale, come dire, a cominciare da quella scuola materna di Ostia dove non è stato fatto entrare Babbo Natale perché spaventa gli extracomunitari. Così Chiara Pellegrini lo scrive in prima pagina del quotidiano Libero: annullato l'incontro coi bambini in una scuola materna per rispettare le minoranze in tutta Italia, spariscono alberi e presepi. Guardate, passerà anche questo Natale e ci porterà via per un anno queste notizie, che riappariranno poi puntuali l'anno prossimo. Beh, come avete sentito nel giornale radio, la vicenda del sultano del Brunei, che è riuscito a conquistarsi una pagina sui giornali italiani, praticamente una pagina ovunque. Il sultano del Brunei vieta il Natale. Questo sultano si chiama Hassan al-Bolkiah. Difendendo le tradizioni musulmane, dice: niente addobbi o canti, tanto più niente crocifissi. Chi festeggia finisce 5 anni in carcere. Questo nel sultanato del Brunei succede, ma lo leggete ovunque. Il Giorno dedica una pagina, pagina 18, a questo tema. Ma l'articolo che mi fa pinzare della giornata, anche alla antivigilia di Natale, l'articolo da Mani sul Volante è questo: voi vi lamentate delle mie ferie, dite che sono troppe, dite che io non posso andare in ferie. Alcuni di voi lo dicono ovviamente inutilmente, patetici tentativi, ma da dopodomani sono in ferie fino al 7 gennaio. Ma sentite qui, tanti auguri! Il paese può attendere il Parlamento in ferie per 20 giorni. Ettore Maria Colombo lo racconta sul Giorno. Dopo il lungo ponte dell'Immacolata arrivano le maxi vacanze di Natale per i deputati. Mentre il caso banche impazza, i risparmiatori infuriati protestano in Parlamento, la commissione d'inchiesta prenderà il via solo con l'anno nuovo e le istituzioni più in vista, Banca Italia, Consob, sono nella bufera, il Parlamento chiude i battenti per ferie. L'onorevole deputato o senatore non è fatto per turni lunghi di lavoro massacrante. Quando la seduta si protrae e si va per le lunghe, il parlamentare sbuffa, si spazientisce, fuma nervosamente. E eccolo qui, dopo la maratona di ieri per la legge di stabilità, zac, tutti a casa, 20 giorni di ferie. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che... Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Aggiustiamo gli ombrelli. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Straordinario. Se la cucina straordinario fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Allora, saluto e mando un abbraccio anche a Pietro, che mi manda un messaggio su WhatsApp molto natalizio dicendo: perché tu, coglione, quanti giorni di ferie fai? Se fossi il tuo editore ti manderei beep. Grazie Pietro, buon Natale anche a Vossia. Milord, eletto Milord di Radio 24. Allora, è stata approvata in via definitiva la legge di stabilità. Tutti i dettagli li leggete sul Sole 24 Ore. Oggi non ce li racconta Mauro Meazza perché è in ferie. Mauro Meazza, appunto, ce li racconta Marco Rogari a pagina 2 e 3. È una legge di stabilità, come tutte le leggi di stabilità, molto complesse, molto complicate. Esce con una forma di 999 commi, con un impatto sui conti pubblici, racconta Rogari a pagina 2 del Sole, tra i 32 e i 33 miliardi. Il saldo netto da finanziare è lievitato a quota 35,4 miliardi, mentre il deficit 2016 sale dal 2,2 al 2,4% per effetto dell'immediata attuazione da parte del governo del piano sicurezza cultura da 2,6 miliardi e la contemporanea rinuncia all'anticipo del taglio dell'IRES, che resta invece previsto per il 2017. Disinnescate per il 2016 le clausole fiscali da 16,8 miliardi. Allora, è la legge di stabilità che prevede tante cose, ovviamente il maxi ammortamenti con gli sconti fiscali per chi investe, il bonus da 500 euro per i 18enni, il bonus cultura, la fine della TASI sulla prima casa, il contante, il limite del contante a 3.000 euro, il canone della RAI in bolletta che cala da 113 a 100 euro e quindi sarà più difficile evadere, ma poi insomma tante tematiche sono tutte affrontate punto per punto sul Sole 24 Ore a pagina 2-3. Il Messaggero torna anche con Luca Cifoni a pagina 4 sulle cosiddette micronorme, no? Col mille proroghe che verrà oggi in esame al Consiglio dei Ministri, la musica, il bonus camper, ci sono sempre mille proroghe delle novità che vengono approvate poi agli ultimi tempi. Comunque la legge di stabilità è approvata, è definitiva e dunque ne discuteremo nella parte che prevede anche, no, il pagamento da parte dello Stato, l'anticipo dello Stato quando c'è un coniuge separato moroso dalle 8:15. Poi c'è l'altra questione che ancora tiene banco, la questione delle banche. Ebbene sì, le notizie qui sono diverse. Intanto, come fanno sapere con ampio risalto il Messaggero e il Corriere, mettono la notizia in prima pagina, c'è una lettera dell'Unione Europea all'Italia. Pagina 2 del Messaggero, leggo Roberta Amoruso e Rosario Di Mito. Uno scambio di corrispondenza tra Italia e Bruxelles sul salvataggio delle quattro banche. uno scambio che sta sollevando un polverone, perché in una lettera del barone britannico Jonathan Hill, commissario europeo per la stabilità finanziaria, al ministro dell'economia Padoan, si risponde sulla possibilità di utilizzare il fondo tutela dei depositi come fondo privato per reperire le risorse necessarie a rimettere in sesto le quattro banche. Banca Italia stava facendo scendere in campo l'organismo consortile che avrebbe dovuto confezionare l'operazione prima della fine dell'anno, ma siccome il tempo scivolava in attesa che l'Unione Europea desse l'ok alla manovra, il fondo aveva incassato il via libera di un gruppo di banche per confezionare un finanziamento ponte da 1,9 miliardi. A metà novembre, con l'acqua alla gola, senza che Bruxelles avesse messo nero su bianco la sua contrarietà, via nazionale e governo avevano deciso di ricorrere al burden sharing, cioè la procedura di risoluzione prevista dall'Unione Europea attraverso la contribuzione straordinaria delle banche concorrenti per 2.250 milioni. Però l'Unione Europea dice... non va bene. E tra l'altro su questo il Corriere della Sera racconta: il governo italiano sarebbe tentato di rendere nota tutta questa corrispondenza. Il caso della lettera a Bruxelles, le obiezioni dei commissari, oltre che Hill anche Vestager, all'utilizzo del fondo interbancario, il governo sta valutando se rendere pubblici tutti i dubbi dell'Unione Europea sulla linea morbida, e questo si vedrà. Poi, per quel che riguarda invece le banche, è interessante la proposta che ieri è stata avanzata, l'idea di fare una commissione parlamentare d'inchiesta. Repubblica mette questa come notizia di maggiore evidenza sul caso. Alberto D'Argenio a pagina 2: dopo giorni di ipotesi e dibattiti, il PD al Senato lancia l'idea della commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Una proposta di legge firmata da Andrea Marcucci, che è un senatore toscano molto vicino al premier Matteo Renzi, lo abbiamo invitato anche la scorsa settimana. Dice Marcucci, intervistato a pagina 3, vogliamo appurare le responsabilità degli organi delle banche in crisi salvate dal decreto, ma vogliamo guardare anche con attenzione le regole del sistema e delle attività di vigilanza. Ecco perché questa dichiarazione, cioè indagare un po' sul ruolo di Banca Italia e la Consob, unita questa dichiarazione esplicita, unita al retroscena sempre su Repubblica attribuito a Renzi, che dice ora si indaghi sugli ultimi 20 anni di come sono state gestite la vigilanza e le banche, ha fatto sbottare qualcuno in Banca Italia. Sempre in questo retroscena, Carmelo Lopapa su Repubblica pagina 3 racconta che a Banca Italia non l'hanno presa benissimo questa idea della commissione d'inchiesta proposta dal PD. L'ira della Banca d'Italia infatti è questa: così ci umiliano, ci trattano come Sindona. Questo è quello che viene attribuito come frasi a uomini vicino a Visco, cioè il governatore di Banca Italia, umiliati da questa proposta che vorrebbe indagare quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Certo, però, sempre sulle banche si accumulano particolari davvero inquietanti. Fiorenza Sarzanini, pagina 3 del Corriere della Sera, le buone uscite milionarie e i mancati tagli agli stipendi. Queste sono le contestazioni ai vertici. Per esempio, il direttore generale Luca Bronchi, indagato per le operazioni immobiliari, eppure se ne va con un indennizzo da 1,2 milioni di euro, nonostante il grave deterioramento della banca. Al suo successore Daniele Cabiati viene consegnata una lettera di incarico con la possibilità di riconoscergli una retribuzione tra i 300.000 euro, contrariamente a quanto indicato sulle politiche di remunerazione. E ancora, i dirigenti Lorenzo Rosi, Alfredo Berni e Pierluigi Boschi, che si votano un taglio dello stipendio del 32% per il presidente Rosi e del 20% per i vicepresidenti Berni e Boschi, eppure tutto ciò non porta a nulla di concreto, cioè viene votato il taglio dello stipendio, ma non accade nulla, scrive la Sarzanini. E anche questo rimane solo un taglio sulla carta ed è una contestazione degli ispettori, che dicono non è stato rispettato l'intento di voler rappresentare un punto di discontinuità nella vita aziendale. Quindi anche quando dicono ci siamo tagliati lo stipendio, scrive il Corriere. C'è la delibera, è vero, ma poi non è stata mai applicata. Questa è l'accusa. Sulle banche e su altro parla il ministro dell'economia Padoan. Lo fa con Il Foglio, con Marco Valerio Loprete. L'intervista la trovate in prima pagina. Le banche, banche che sono solide, assicura Padoan. Ma scusi, anche lei ha parlato di interventi umanitari. Ed ecco qui che Padoan dice: faccio mea culpa su quell'espressione ripresa dai media in modo parziale, senza completare il mio pensiero. Non volevo drammatizzare oltremodo, ma dire che erano da mettere in conto drammi umani. E poi Padoan aggiunge: investitori, investitori che per i media sono sempre soltanto poveri risparmiatori turlupinati. Mi consenta di tornare al mio mestiere di economista. La vicenda delle quattro banche è viziata dalla asimmetria informativa tra venditori di prodotti finanziari e compratori. Le autorità devono aiutare questi ultimi, inclusi gli investitori retail, cioè i cittadini normali, a riequilibrare un po' il terreno di gioco, accrescendo la propria conoscenza finanziaria. È un fattore culturale, quello della scarsa educazione finanziaria, su cui l'Italia come paese deve lavorare. Poi Padoan risponde a una domanda sul presunto doppio standard dell'Unione Europea, visto che in Portogallo è stata salvata la Banif, la banca, coi soldi dei contribuenti. Ma dice Padoan: no, non c'è un doppio binario. Anche in quel caso l'aiuto è stato possibile solo dopo aver azzerato gli investimenti di azionisti e obbligazionisti subordinati. E poi parla di altro, alla fine anche in questa lunga intervista parla del Jobs Act. I numeri sono positivi, ma non così positivi, conferma Padoan. Le riforme strutturali producono risultati crescenti nel tempo e il 2016 deve diventare ancora di più l'anno della contrattazione aziendale. Le parti sociali sono sovrane, ma se la riforma non arriva, interviene il governo. Aumentare produttività e occupazione è troppo importante. Così Padoan sul caso banche e non solo sulle banche. Allora, dobbiamo affrontare la politica? Beh, la politica vede un Forza Italia in estrema difficoltà, per questo oggi Berlusconi fa un'intervista al Giorno, Sono in campo. Pagina 2. Del Giorno, Andrea Cangini, direttore, lo intervista e dice riguardo agli smottamenti in Forza Italia: gli ultimi due che se ne sono andati sono Sandro Bondi e Manuela Repetti, cioè sono anche tra l'altro compagni, hanno abbandonato Forza Italia e vanno con Verdini. Risponde Berlusconi: guardi, sono problemi piccoli destinati a rientrare. D'altronde lo dice il proverbio: quando il gatto non c'è, i topi ballano. Capisco, ma perché il gatto è assente? È assente dal Parlamento, ma non è assente dal paese. Le assicuro che non passa giorno senza che incontri qualcuno per organizzare il futuro del centrodestra. Ci stiamo lavorando, metteremo su una squadra di giovani che interloquirà con quei 27 milioni di abitanti e di italiani che frequentano internet. Abbiamo individuato 10 aree test dove sia il partito sia il centrodestra risultano in sofferenza e batteremo a tappeto per convincere gli elettori che saranno delusi a non disertare il voto e darci nuovamente fiducia. Poi parla anche di Milano, dice: per ora stiamo ragionando come candidati su Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Stefano Parisi. Ma senta, Del Debbio e Parisi non sembrano affatto tentati. Abbia fiducia, risponde Berlusconi, un candidato verrà senz'altro fuori. E secondo me Sala non riuscirà a vincere nemmeno le primarie del PD. Così la gufata di Berlusconi all'ex amministratore dell'Expo. La verità è che Giuseppe Sala è uomo del centrodestra, lo è sempre stato, altro che PD, ce lo presentò Bruno Ermolli e ha collaborato attivamente con la giunta Moratti. Pensa che uno così possa essere votato dalla sinistra? No, ma così Berlusconi, intervistato a pagina 2 del Giorno. E ho immancabile la foto di lui, la Pascale, Dudù, Dudina, Didi, Vavà, Pelé. A Milan, io voglio sentire il traffico! Alessandro Milan, il Bonovox dell'informazione. No, aspetta. No. Forse solo il Vox dell'informazione. Sì, sì, dai, dai, solo il Vox, ah, dai, vabbè, dai. Babbo Natale, sei ancora in tempo per farmi coronare il sogno della vita, essere Bono, ormai lo sapete, era il mio sogno, e... però c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. Eccoci qua, Angelo Harlem, Bonovox, You Too! Dai, dai, l'antivigilia! Non canterò. Allora, sarebbe una rassegna stampa, e quindi Bono! Rientriamo in Bono, rientriamo in noi. Allora, che meazza sono, mi chiedo. No, Meazza è in ferie, il debosciatello, e allora ritornerà settimana prossima quando io non ci sarò, però ricordatevelo. Allora, ci sono tante altre notizie sui giornali, a cominciare da questa cosa dell'aria, l'aria. Non piove, non nevica, soprattutto non nevica, un disastro per tutti coloro che devono andare a sciare. C'è neve sparata, eccetera, ma insomma sciare sulla neve sparata vedendo a fianco le margherite in fiore dei campi in montagna non è il massimo della vita. Accontentatevi, però soprattutto c'è un problema di inquinamento. Attenzione, perché l'Unità, pagina 2, racconta che amici di Roma, cari romani, care romane, voi pensavate di esservela cavata con le targhe alterne, ma potrebbe arrivare il blocco totale del traffico. Deciderà, come sempre, il ministro dell'ambiente insieme al prefetto Tronca. Malaria in città, malaria nel senso mal apostrofo aria, state tranquilli. Mal aria in città, e Roma prepara lo stop alle auto. Da Milano a Firenze, da Torino a Roma, emergenza di polveri sottili, la capitale è pronta al blocco totale. È pronta, state pronti, state attenti al possibile blocco totale. Oh, vogliamo saltare a qualche notizia di cronaca diversa. La prima è una sentenza della Cassazione. Ricordate che già la scorsa settimana si era parlato di un ginecologo condannato in Cassazione. Perché? Perché non aveva avvisato una coppia del fatto che il loro figlio era affetto dalla sindrome di Down, e questa coppia dice: non ci ha avvisato, noi avremmo abortito sapendolo prima, e quel ginecologo è stato condannato a risarcire questa famiglia. Ora c'è un'altra sentenza che fa discutere su un caso simile. È il ricorso di una famiglia che ha messo al mondo un bambino con la sindrome di Down e ha detto: non siamo stati avvisati. Se lo avessimo saputo, avremmo abortito. La Cassazione però boccia il ricorso di questa famiglia. In gravidanza la sindrome non era stata diagnosticata. Tra l'altro c'è questo titolo e anche l'articolo che mette insieme, secondo me, alcuni termini sbagliati, perché bisogna ribadirlo sempre: la sindrome di Down non è una malattia. Malattia, non è una malattia, è una sindrome, appunto. Non esiste il diritto di nascere sani, questo è il titolo. Risarcimento negato alla bambina Down. Caterina Pasolini racconta, pagina 23, non sarà risarcita una bambina lucchese nata con la sindrome di Down. La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste un diritto a non nascere se non sani. E questo mette in scacco il concetto stesso di danno per chi viene al mondo malato. Ma ripetiamo, non è una malattia. Allo stesso tempo i giudici, invitando a non considerare le persone come semplici oggetti e quindi di minor valore se danneggiati, chiamano indirettamente in causa lo Stato per invitarlo a garantire assistenza e appoggio alle famiglie che hanno figli disabili. Una sentenza complessa, ovviamente, ma a presentare questa richiesta di danno a nome e della loro figlia era una coppia che ha citato l'ASL di Lucca e i primari di ginecologia, dicendo durante l'esame di gravidanza i medici non avevano riscontrato che la bambina fosse affetta da questa sindrome. Se lo avessi saputo avrei abortito, ha dichiarato la madre, e poi si è rivolta alla magistratura, che però le ha dato torto. Questo lo trovate su Repubblica, una pagina, pagina 23, ma è ovunque questa notizia sui giornali. Come ovunque è l'apertura della stampa, la svolta. Certo, sentir parlare di svolta dopo 32 anni, come racconta Filippo Facci in prima pagina di Libero, è un po' inquietante. Svolta, sono passati 32 anni, però certamente non si sapeva chi aveva ucciso il procuratore capo di Torino Bruno Caccia, che indagava sulle mafie, indagava sull'andrangheta attraverso delle indagini, grazie alla tecnologia, grazie all'insistenza, grazie a degli sviluppi clamorosi, ben raccontati tra l'altro in un articolo del Corriere della Sera. Si è scoperto che a uccidere, a dare il colpo di grazia 32 anni fa al procuratore capo Bruno Caccia di Torino è stato questo Rocco Schirripa, che poi ha fatto per 32 anni il panettiere, faceva il panettiere proprio a Torino, origini però calabresi, risulta titolare di una panetteria alla periferia di Torino, nel quartiere Parella, avrebbe dato il colpo di grazia al magistrato. E la squadra mobile di Torino, come racconta Luigi Ferrarella a pagina 23, è riuscita appunto anche con delle intuizioni, una finta lettera per far vedere se qualcuno ci cascava, poi delle intercettazioni molto complicate, insomma è tutto ben spiegato da Luigi Ferrarella pagina 23, anche con delle inchieste molto molto approfondite si è arrivati a questa, ripeto, svolta dopo 32 anni dall'omicidio. Mentre ci sono delle novità anche sul caso Cucchi. Stefano Cucchi, lo sapete, è morto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Pertini di Roma, era stato arrestato il 15 per possesso di droga. C'è un nuovo testimone che spunta, un compagno di cella di Stefano Cucchi, che ora dice, lo racconta Giovanni Bianconi a pagina 25, Stefano fu picchiato perché si rifiutò di fare la spia. Lo racconta uno che era in carcere con lui, lo vidi arrivare e gli dissi: ma chi ti ha ridotto così? Aveva il viso tumefatto, era evidente che era stato picchiato. Il giorno dopo non riusciva neanche a bere il caffè, a parlare come era ridotto, aveva un forte dolore all'altezza della guancia destra. Gli chiesi: se è stata la polizia penitenziaria, dimmelo. E lui disse, in pratica a un certo punto, perché non lo sai, che dovevo fare, tu avresti parlato. A quel punto, racconta questo testimone, compresi cosa intendeva dire. Gli chiesi se gli avessero proposto di fare la fonte confidenziale, cioè la spia, e lui dice: più o meno è andata come dici tu. Questa sarebbe la nuova testimonianza comunque di un altro carcerato che dice: l'ho visto e chiaramente era stato picchiato in maniera brutale perché era tutto un livido. Va bene, siamo in conclusione, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo sulla prima pagina, se la trovo del secolo XIX. C'è un articolo, scusate, di Babbo Natale. C'è Babbo Natale che scrive, ma allora vedi che esiste, c'è Babbo Natale che scrive sulla prima del secolo XIX: cari bambini, perché per me siete tutti bambini, mi avete scritto queste belle letterine. Ma chi se ne frega!